Capitolo 22. L'importanza di Fanny aumentò con la partenza delle cugine. Rimasta l'unica giovanetta presente in salotto, l'unico membro di quella interessante categoria in una famiglia nella quale fino a quel momento aveva occupato un così umile terzo posto, era impossibile che non la guardassero di più, non pensassero maggiormente a lei, non se ne occupassero più assiduamente di quanto avessero mai fatto prima. E dov'è Fanny? Divenne una domanda tutt'altro che inconsueta, anche quando la sua presenza non era richiesta dalle esigenze di qualcuno. La si apprezzava di più, non solo in casa, ma anche alla canonica. Fanny, che dopo la morte di Mr. Norris non vi aveva messo piede più di 2 volte l'anno, divenne un'ospite benvenuta e invitata, e nello squallore e nel fango di novembre, graditissima a Mary Crawford. Incominciate per caso, continuarono dietro calorosa sollecitazione a Mrs. Grant. In realtà ansiosa di procurare una qualche distrazione alla sorella, fu facile persuadersi con inconscio autoinganno di usare un'estrema cortesia a Fanny e, sollecitandola a tornare spesso, di offrirle una preziosa occasione per progredire e affinarsi. La cosa era incominciata così. Fanny, mandata al villaggio dalla zia Norris per una qualche commissione, era stata sorpresa da un violento acquazzone nelle vicinanze della canonica e qualcuno l'aveva scorta dalla finestra mentre tentava di trovare riparo sotto i rami e le foglie superstiti di una quercia proprio dietro la casa. Così l'avevano costretta, non senza qualche timida riluttanza da parte sua, ad entrare. Aveva opposto resistenza ad un cortese domestico, ma quando il dottor Grant in persona era uscito portando un ombrello, non aveva potuto fare altro che entrare in casa, imbarazzatissima e il più rapidamente possibile. E per la povera Miss Crawford, che profondamente depressa stava appunto contemplando la pioggia battente, pensando tra un sospiro e l'altro al fallimento del suo progetto di uscire in mattinata a far 2 passi e all'improbabilità di vedere una qualsiasi anima viva all'infuori dei suoi nelle prossime 24 ore, il piccolo tramestio alla porta d'ingresso e la vista di Miss Price gocciolante nel vestibolo erano stati una deliziosa sorpresa. Capì quanto conti un evento inatteso in campagna in un giorno di pioggia, si sentì rinascere e fu tra le persone presenti la più attiva nel rendersi utile a Fanny, nello scoprire che era più inzuppata di quanto a tutta prima essa volesse ammettere e nel fornirle abiti asciutti, sicché Fanny, costretta ad accettare tutte quelle premure e ad essere aiutata e servita da padrone cameriere, costretta inoltre, una volta tornata da basso, a trattenersi in salotto per un'ora mentre continuava a piovere, fu per Miss Crawford una vera benedizione, qualcosa di nuovo e di inatteso da contemplare e a cui pensare, qualcosa che l'avrebbe tenuta su di morale fino al momento di vestirsi per il pranzo e di andare a tavola. Le due sorelle furono così gentili con lei e così affabili che Fanny avrebbe goduto quella visita se solo avesse potuto essere sicura di non cagionare disturbo e se avesse potuto prevedere che il tempo si sarebbe precisamente rimesso nel giro di un'ora, risparmiandole l'imbarazzo di vedere che si facevano uscire i cavalli e la carrozza del dottor Grant per ricondurla a casa. Eventualità questa da cui si sentiva minacciata, quanto all'ansietà che una sua assenza con quel tempaccio avrebbe potuto cagionare in famiglia, non aveva di che preoccuparsi, poiché solamente le due zie sapevano che era uscita e lei era sicurissima che non si sarebbero minimamente allarmate. Bastava che la zia Norris decidesse che si era riparata dalla pioggia in questo o in quel casolare e la zia Bertram le avrebbe senz'altro creduto. Il cielo cominciava a schiarire quando Fanny, vedendo l'arpa nella stanza, fece in proposito alcune domande che ben presto la indussero ad ammettere che era suo vivo desiderio sentirla suonare e ad aggiungere, cosa che parve incredibile a Mary, di non averne mai avuto l'opportunità da quando lo strumento era giunto a Mansfield. A Fanny il fatto sembrava semplicissimo e del tutto naturale. Non era quasi mai stata alla canonica da quando l'arpa vi aveva fatto il suo ingresso, per cui non le si era mai offerta l'occasione. Ma Miss Crawford, ricordando come tempo addietro l'ospite avesse espresso quello stesso desiderio, si pentì della propria trascuratezza e subito le chiese, con cordiale sollecitudine, «Vuole che suoni per lei ora? Cosa le piacerebbe sentire?» Suonò dunque. felice di avere una nuova ascoltatrice. Un'ascoltatrice che inoltre sembrava tanto grata, tanto piena di ammirazione per la sua bravura e che dava prova di non essere priva di gusto. Suonò finché il tempo non volse al bello e gli occhi di Fanny, volgendosi alla finestra, non espressero la sua intenzione di congedarsi. «Ho ancora un quarto d'ora», disse Miss Crawford, «e vedremo se dura. Non fugga al primo momento in cui il tempo sembra migliorare, quelle nuvole hanno un'aria minacciosa». «Oh, ma sono già passate oltre», disse Fanny, «le ho osservate. Il vento soffia da sud». «Nord o sud? Riconosco una nuvola nera quando la vedo e lei non deve incamminarsi finché il tempo si mantiene così minaccioso. E inoltre voglio suonarle ancora una cosa, un pezzo molto bello. È il preferito di suo cugino Edmund. Deve rimanere ad ascoltare il pezzo preferito di suo cugino». Fanny sentì che doveva farlo. E benché non avesse atteso quell'informazione, per pensare a Edmund, quel cenno ne evocò vividamente l'immagine e se lo figurò seduto in quella stanza, giorno dopo giorno, forse proprio dove lei sedeva ora, intento ad ascoltare con immutato piacere la sua aria preferita, quell'aria che, così le sembrava, Miss Crawford eseguiva con tono ed espressione superiori alle altre. Anche a Fanny piaceva ed era lieta di apprezzare tutto ciò che egli apprezzava, eppure quando il pezzo finì si sentì più sinceramente impaziente di andarsene di quanto lo fosse stata prima, e quando il suo desiderio apparve palese, le sue ospiti la invitarono così gentilmente a tornare, a fare della canonica la meta della sua passeggiata, ogni volta che le fosse possibile, a venire ancora a sentir suonare l'arpa, che Fanny sentì di doverlo fare, purché nessuno a casa vi facesse obiezione. Ebbe così inizio quella specie di intimità che si stabilì fra loro 2 settimane circa dopo la partenza delle signorine Bertram, un'intimità che nasceva principalmente dal desiderio di Miss Crawford di una qualche novità e che non aveva profonde radici nei sentimenti della fanciulla. Fanny andava alla canonica ogni 2 o 3 giorni, sembrava attratta da una specie di incantesimo, non si sentiva paga se non andava. Eppure non voleva bene a Mary Crawford, non pensava come lei, non provava nessun sentimento di gratitudine nel vedersi ricercata ora che non c'era nessun'altra persona da invitare. Non traeva alcun piacere dalla conversazione della compagnia all'infuori di un occasionale divertimento che, a dispetto dei suoi principi, provava proprio quando il riso nasceva dal dileggio di persone o argomenti che desiderava fossero rispettati. Tuttavia ci andava e fecero molte passeggiate di mezz'ora tra le macchie di arbusti di Mrs. Grant. La temperatura era insolitamente mite per la stagione, così a volte si arrischiavano perfino a sedere su una delle panchine, ora quasi senza riparo di fronde, rimanendovi forse finché, nel bel mezzo di una tenera esclamazione di Fanny sulla delicata bellezza di un così prolungato autunno, l'improvviso soffio di una fredda ventata che faceva cadere intorno a loro le ultime foglie ingiallite, le costringeva a balzare in piedi e a mettersi a camminare per riscaldarsi. «È bello, sì, è così bello», disse un giorno Fanny, guardandosi intorno mentre se ne stavano così sedute insieme. «Ogni volta che vengo in questa macchia di arbusti resto colpita dalla sua leggiadria, da quanto sia cresciuta. 3 anni fa non era che una comune siepe divisoria sul ciglio del campo e non le si dava nessuna importanza». Non si pensava di poterne fare qualcosa, ed ora è trasformata in un luogo da passeggio e sarebbe difficile dire se ha più valore per la comodità che offro per la sua bellezza ornamentale. E da qui ad altri 3 anni può darsi che noi si dimentichi quello che era prima. Quanto è prodigioso, veramente prodigioso l'operare del tempo, il mutare della mente umana. E seguendo il filo di quest'ultimo pensiero, poco dopo aggiunse: «Se una delle nostre facoltà può dirsi più meravigliosa delle altre, questa è la memoria, penso. Nei suoi poteri, nelle sue deficienze, nella sua mutabilità, sembra esservi qualcosa di più misterioso che in ogni altra attività della nostra mente. La memoria è a volte così tenace, così servizievole, così obbediente, e altre volte così confusa e così debole. E altre volte ancora così tirannica, così incontrollabile. Siamo certamente un miracolo da tutti i punti di vista, ma la natura della nostra facoltà di ricordare e di dimenticare sembra veramente al di là di ogni comprensione». Miss Crawford Indifferente e distratta, non aveva nulla da dire e Fanny, accorgendosene, riportò il discorso su quello che credeva potesse interessarla. Può sembrare presuntuoso da parte mia esprimere una lode, ma devo ammirare il gusto che Mrs. Grant ha dimostrato in tutta questa sistemazione. Vi è una così sobria semplicità nella disposizione dello scenario, nessuna forzatura. Sì, replicò Miss Crawford, senza dar peso alla cosa. È riuscita molto bene per un posto come questo. Qui non si pensa a vasti spazi e sia detto fra noi, prima di venire a Mansfield non avevo mai pensato che un parroco di campagna aspirasse a possedere una macchia, né altro del genere. Sono così lieta di vedere che i sempreverdi prosperano, continuò Fanny. Il giardiniere dello zio dice sempre che il suolo qui è migliore di quello suo e sembra sia proprio così dalla crescita dei lauri e dei sempreverdi in generale. I sempreverdi, come sono belli, graditi, meravigliosi, i sempreverdi. Quando ci si pensa, che stupefacente varietà è quella della natura. In alcuni paesi la varietà è data dagli alberi che in autunno perdono le foglie, ma ciò non rende meno stupefacente il fatto che lo stesso suolo e lo stesso sole alimentino piante che differiscono fino in quella che è la prima regola e legge della loro esistenza. Penserà che mi abbandono al lirismo, ma quando sono all'aperto, soprattutto quando siedo all'aperto, sono veramente portata a lasciarmi andare a questo genere di fantasticheria. Non si può posare lo sguardo sul più semplice prodotto della natura senza trovare alimento per una fantasiosa divagazione. Per dire la verità, rispose Miss Crawford, io sono piuttosto come il famoso doge alla corte di Luigi XIV e posso dichiarare che non vedo nulla di più meraviglioso in questa macchia del fatto di trovarmici. Se un anno fa qualcuno mi avesse detto che questo luogo sarebbe stato la mia dimora e che vi avrei trascorso un mese dopo l'altro come sto facendo, non lo avrei certamente creduto. Sono ormai quasi 5 mesi che vivo qui e inoltre i più quieti 5 mesi che abbia mai trascorso. Troppo quieti per lei, credo. Disse Fanny. Così avrei pensato io stessa, in teoria, ma. E gli occhi le si illuminarono mentre parlava. Considerandola nel suo insieme, non ho mai vissuto un'estate più felice. Proprio così, continuò con aria più pensosa e a voce più bassa, non si può dire dove questa situazione mi può portare. Il cuore di Fanny prese a battere forte. Neppure lei non si sentiva in grado di avanzare una supposizione o di sollecitarla, ma dopo una breve pausa Miss Crawford continuò con rinnovata animazione. Sento di essermi riconciliata con l'idea di una residenza in campagna più di quanto potessi immaginare. Posso perfino supporre che sia piacevole trascorrere in campagna a metà dell'anno, poste certe condizioni, molto piacevole. Vivere in una casa elegante, abbastanza vasta, al centro di un mondo familiare con cui membri sia possibile intrattenere costanti relazioni, occupare il primo posto nella società dei dintorni, essere considerata come colei che dà il tono, anche più di chi disponga di maggiori beni di fortuna, e uscire dal gaio giro dei divertimenti solo per godere un tête-à-tête con la persona che si considera la più piacevole al mondo. Non vi è nulla di spaventoso in un simile quadro, non è vero, Miss Price? In una situazione come questa non ci sarebbe da invidiare la nuova Mrs. Rushworth e una dimora come la sua. Invidiare? Invidiare Mrs. Rushworth fu tutto quanto Fanny riuscì a dire. Via, via, sarebbe molto brutto da parte nostra essere severe verso Mrs. Rushworth, poiché attendo con impazienza le moltissime ore allegre, brillanti, felici di cui dovremmo esserle riconoscenti. Immagino che noi tutti saremo assai spesso a Sotherton l'anno prossimo. Un matrimonio come quello che Miss Bertram ha contratto è una pubblica benedizione, poiché il primo piacere della moglie di Mr. Rushworth sarà di riempire la sua casa di gente e di dare i più bei balli del circondario. Fanny rimase in silenzio e Miss Crawford ricadde per qualche minuto nel suo umore pensoso, finché, alzando improvvisamente lo sguardo, esclamò: Ah, eccolo! Non si trattava di Mr. Rushworth, comunque, ma di Edmund che veniva verso di loro in compagnia di Mrs. Grant. Mia sorella e Mr. Bertram sono così contenta che grazie alla partenza del maggiore dei suoi cugini lui possa essere nuovamente indicato come Mr. Bertram. Vi è qualcosa di così formale in Mr. Edmund Bertram, di così meschino, fa tanto fratello cadetto che mi riesce detestabile. Com'è differente il nostro modo di sentire? Esclamò Fanny. Per me il Mr. Bertram suona così freddo e privo di significato, così totalmente privo di calore e di carattere, indica semplicemente un gentiluomo e niente di più. Ma vi è un che di nobile nel nome Edmund, è un nome che suggerisce eroismo e fama. Il nome di re e di principi e di cavalieri, e sembra che ne emani lo spirito stesso della cavalleria e dei caldi affetti. Ammetto che il nome in sé è buono, e Lord Edmund o Sir Edmund ha un suono delizioso, ma lo si congeli, lo si annienti con un Mister e Mister Edmund non diventa nulla più di un Mister Thomas o di un Mister John. Bene, dobbiamo raggiungerli e toglier loro almeno per metà il gusto della ramanzina che si preparano a farci, perché ce ne stiamo sedute all'aperto in questa stagione. Ci faremo trovare in piedi prima che possano incominciare. Edmund le incontrò con speciale piacere. Era la prima volta che le vedeva insieme da quando era iniziato fra loro quel più stretto rapporto di cui aveva sentito parlare con grande soddisfazione. Un'amicizia fra due fanciulle che gli erano tanto care era proprio quanto poteva desiderare di più. E a credito della perspicacia dell'innamorato, si deve ammettere che da nessun punto di vista considerava Fanny come l'unica, e nemmeno come la principale beneficiaria in quell'amicizia. Ebbene, disse Miss Crawford, non ci sgridate per la nostra imprudenza? Perché credete che noi ci siamo sedute se non perché ci facciate la predica in proposito e ci supplichiate di non farlo più? Forse vi avrei mosso rimprovero, disse Edmund, se l'una o l'altra di voi fosse stata sola, ma quando agite male insieme posso chiudere un occhio su molte cose. Non possono essere state sedute a lungo, esclamò Mrs. Grant, poiché quando sono andata di sopra a prendere lo scialle le ho viste dalla finestra delle scale e in quel momento stavano passeggiando. E in verità, aggiunse Edmund, la giornata è così mite che lo starvene sedute per alcuni minuti può difficilmente essere considerato un'imprudenza. Da noi il tempo non è sempre da giudicare in base al calendario. A volte possiamo prenderci maggiori libertà in novembre che non in maggio. Parola d'onore, esclamò Miss Crawford. Fra tutti i cari amici che ho incontrato, nessuno è più insensibile e deludente di voi due. Mai che vi si possa cagionare un momento di preoccupazione. Voi non sapete quanto abbiamo sofferto, quali brividi di freddo abbiamo provato. Ma ho sempre pensato che Mr. Bertram è una delle più indisponenti persone che una povera donna possa tentare di sconcertare, ricorrendo a qualche piccola manovra che vada contro il senso comune. Da lui ho sempre sperato pochissimo, fin da principio, ma in lei, Miss Grant, mia sorella, la mia propria sorella, pensavo di avere il diritto di suscitare un qualche allarme. Oh, non ti lusingare, carissima Mary, non hai la minima probabilità di agitarmi. Certo, qualcosa mi ha allarmata, ma per ben altri motivi. E se avessi potuto far cambiare il tempo, ti avrebbe investito un buon vento pungente dall'est, poiché ci sono alcune delle mie piante che Robert si ostina a lasciar fuori di notte, visto che il tempo è così mite e so come andrà a finire. A un tratto avremo un cambiamento di temperatura, una bella brinata all'improvviso che coglierà tutti di sorpresa, o perlomeno Robert, e mi rovinerà le mie piante. E quel che è peggio, la cuoca mi ha appena detto che il tacchino, che desideravo in modo speciale non fosse cucinato prima di domenica, perché so quanto il dottor Grant lo gradirebbe domenica dopo le fatiche di quella giornata, non si manterrà oltre domani. Questi sì che sono motivi di lagnanza e mi fanno trovare questa giornata molto afosa, troppo afosa per la stagione. Oh, le gioie di chi dirige una casa in un villaggio di campagna, disse Miss Crawford maliziosamente. Saluti da parte mia al suo giardiniere e il suo pollicoltore. Mia cara bambina, saluta da parte del dottor Grant i decani dell'abbazia di Westminster e quelli di St. Paul, e ti assicuro sarai soddisfatta del tuo giardiniere e del tuo pollicoltore quanto potresti esserlo tu. Ma visto che qui a Mansfield non abbiamo persone simili a portata di mano, cosa vorresti che facessi? Oh, lei non potrebbe fare nulla più di quanto già fa. Avere tanti motivi di irritazione e non spazientirsi mai. Grazie, ma le piccole molestie non possono essere evitate, Mary, qualunque sia il luogo in cui si abita, e quando sarai felicemente sistemata in città e io ti verrò a far visita, sono certa che ti troverò alle prese con le tue molestie, a dispetto del giardiniere o del pollicoltore, o forse proprio per causa loro. E sì, perché. La loro lontananza e mancanza di puntualità, i loro prezzi esorbitanti e le loro frodi ti strapperanno a mare querimonie. Intendo essere troppo ricca per lagnarmi o risentirmi di cose del genere. Per chi vuole la felicità, una rendita cospicua è la miglior ricetta di cui abbia mai sentito parlare. Certo si garantirebbe tutta quella parte di felicità che dipende dal mirto o dal tacchino. Lei vuole essere molto ricca? Disse Edmundo con uno sguardo che agli occhi di Fanny aveva un significato molto serio. Certamente, lei no? Non lo vogliamo tutti? Io non posso propormi una meta tanto al di là delle mie possibilità, Miss Crawford. Lei può scegliere il proprio livello di opulenza. Deve solo fissare di quante migliaia di sterline l'anno debba essere e non può esservi dubbio che vengano messe ai suoi piedi. Quanto a me, ho solo l'intenzione di adoperarmi per non essere povero. Grazie a moderazione ed economia e con ridurre le proprie necessità a livello della rendita di cui si dispone e via dicendo. La capisco ed è un progetto molto appropriato per una persona della sua età, con mezzi tanto inadeguati e relazioni così prive di importanza. Che altro può volere se non i mezzi che le consentano di mantenersi decentemente? Non ha molto tempo dinanzi a sé. I suoi parenti non sono in condizione di fare nient'altro per lei o si preparano a mortificarla. Col contrasto della loro ricchezza e importanza. Sia onesto e povero, faccia pure, ma io non la invidierò. Non penso nemmeno che la rispetterò granché, rispetto assai di più quelli che sono onesti e ricchi. Il suo grado di rispetto per l'onestà, ricca o povera che sia, è precisamente cosa di cui non ho modo di interessarmi. Io non intendo essere povero. La povertà è proprio ciò contro cui ho decisamente preso posizione. L'onestà, da ricercarsi fra i due estremi, in quella che è la via di mezzo della condizione sociale, è precisamente quanto vorrei che lei non guardasse dall'alto in basso. E invece è proprio quello che guardo dall'alto in basso, se uno avrebbe potuto essere più in alto. Guarderò sempre con disprezzo chi si accontenta dell'oscurità, mentre potrebbe levarsi e accedere ad una posizione distinta. Ma come potrebbe levarsi? Come potrebbe la mia onestà in ogni caso accedere a una posizione distinta? Questa non era una domanda a cui fosse molto facile rispondere. La sua leggiadra interlocutrice replicò con un oh, indugiando su quel suono prima di riuscire ad aggiungere. Lei dovrebbe entrare a far parte del Parlamento? O avrebbe dovuto entrare nell'esercito 10 anni fa? Ah, questa seconda opzione non è molto attuabile ormai. In quanto al mio ingresso in Parlamento, credo che dovrò aspettare finché vi sia una speciale assemblea dove possano essere rappresentati quei figli cadetti che dispongono di un patrimonio limitato. No, no, Miss Crawford, aggiunse in tono più serio. Vi sono certe distinzioni a proposito delle quali mi sentirei avvilito se pensassi di non avere una qualche opportunità. Assolutamente nessuna opportunità o possibilità di ottenerle, ma sono di natura diversa. Fanny, che li osservava, avvertì penosamente l'imbarazzo di lui mentre pronunciava quelle parole. E qualcosa di molto simile all'imbarazzo nei modi di Miss Crawford, mentre dava una qualsiasi risposta scherzosa. E assolutamente incapace di prestare attenzione, come avrebbe dovuto, a Mrs. Grant, al cui fianco ora camminava seguendo gli altri due, si era quasi decisa a ritornare a casa immediatamente e aspettava solo di raccogliere tutto il suo coraggio per annunciarlo, quando il suono del grande orologio di Mansfield Park, che batteva le 3, le disse che era stata assente più a lungo del solito e impose una pronta risposta alla domanda che appunto si stava ponendo. Se dovessi o no prendere subito congedo e in che modo? Messo da parte ogni dubbio, incominciò subito a porgere i suoi saluti e nello stesso momento Edmund si ricordò che sua madre aveva cercato la cugina e che lui era venuto alla canonica allo scopo di ricondurla a casa. La fretta di Fanny crebbe. E si sarebbe incamminata anche senza aspettare di essere seguita da Edmund, ma gli altri tre accelerarono il passo e la seguirono verso la canonica di cui si doveva attraversare l'atrio per uscire sul sentiero comune. Il dottor Grant era nel vestibolo e mentre si fermavano per parlargli, Fanny capì dai modi di Edmund che egli aveva intenzione di andare via con lei. Anche lui, infatti, stava prendendo congedo. Non seppe non sentirsene lieta. Nel momento in cui si incamminavano, Edmund fu invitato dal dottor Grant a condividere il suo pranzo, senza cerimonie, il giorno seguente, e Fanny ebbe appena tempo di registrare la sgradevole sensazione che quell'invito le causava. quando Mrs. Grant, ricordando all'improvviso la sua presenza, si volse a lei e le chiese di offrir loro il piacere anche della sua compagnia. Fu un'attenzione così nuova, una circostanza così assolutamente nuova tra gli eventi della vita di Fanny, che essa fu tutta sorpresa e imbarazzata, e mentre balbettava quanto fosse obbligata, ma che supponeva non le sarebbe stato possibile, guardava verso Edmund per ricavarne consiglio e aiuto. Edmund, lietissimo che le fosse offerto un tale diversivo e assicuratosi con un rapido sguardo e una mezza frase che lei non aveva obiezioni se non per riguardo alla zia, pensò che sua madre non avrebbe avuto nulla in contrario a lasciar libera Fanny e prontamente, francamente, diede il suo parere. L'invito doveva essere accettato. E benché nemmeno dopo questo incoraggiamento Fanny osasse prendere un'iniziativa di così audace indipendenza, fu presto stabilito che, salvo comunicazione contraria, Mrs. Grant la poteva senz'altro aspettare. «E lei sa già quale sarà il nostro pranzo?» disse Mrs. Grant sorridendo. «Tacchino, e le assicuro un tacchino bellissimo perché, mio caro», rivolgendosi al marito, «la cuoca insiste nel preparare il tacchino domani». «Benissimo, benissimo!» esclamò il dottor Grant. «Tanto meglio così. Sono lieto di sapere che ha pronto in casa qualcosa di così buono. Ma Miss Price e Mr. Edmund Bertram, oso dire, accetteranno il resto ad occhi chiusi. Nessuno di noi desidera sapere la lista delle pietanze. Una riunione amichevole, non un pranzo di cerimonia, è tutto quanto abbiamo in vista. Un tacchino, un'oca e un cosciotto di castrato, qualsiasi altra cosa che lei e la sua cuoca scelgano di darci». I due cugini si avviarono insieme verso casa ed, eccetto per l'immediata discussione sull'invito, che Edmund commentò con vivissima soddisfazione, poiché confermava nel modo più desiderabile per Fanny il consolidarsi dell'amicizia con Miss Crawford, cosa da lui tanto caldeggiata, la loro fu una passeggiata silenziosa. Infatti, esaurito quell'argomento, si fece pensoso e si dimostrò poco propenso a trattarne qualsiasi altro.